professor Prodi di contenere, di sintetizzare la mia relazione cercando di non andare a scapito della chiarezza, come loro sanno sempre cosa terribilmente difficile. E ho scelto anch'io la strada della limitatezza dell'area territoriale considerata in questa mia relazione, perché l'occasione mi sembrava importante e richiedesse l'approfondimento più che una generica esposizione delle questioni. E siccome io personalmente sul tema conseguenze economiche della vendita dei beni nazionali ho alcune idee, cioè secondo me per conseguenze economiche si intendono alcune cose, lo stato degli studi notoriamente oggi non consente l'approfondimento di questo tema secondo le linee delle quali io sono convinto che si devono seguire, e allora ho scelto l'area Regno Italico per molti versi, ho scelto soprattutto l'area Lombardia per altri versi, quelli cioè dell'approfondimento dell'andamento delle vendite, perché mi sembra questo un punto essenzialissimo da considerare. Partirò quindi dalla posizione della questione, che cosa si deve intendere, a mio modo di vedere, per conseguenze economiche della vendita dei beni nazionali o del patrimonio ecclesiastico, o che non è soltanto patrimonio ecclesiastico, tra l'altro, anche se questo costituisce la grande parte del patrimonio stesso messo a disposizione appunto dell'ambiente. Che cosa si intende per conseguenze economiche? Ponendolo proprio come problema, insomma, come oggetto del dibattito che poi faremo in seguito. Innanzitutto io credo che si debba prendere in considerazione l'entità complessiva, il volume complessivo dei beni messi in vendita, il volume complessivo cioè dei capitali, delle risorse che sono state mobilitate e che sono state destinate all'acquisto dei beni nazionali. Questa è una cosa importantissima perché evidentemente in un quadro di convenienze dirette ad orientare gli impieghi di capitale in certe direzioni possibili, dalla stessa agricoltura ad altre attività economiche, si pone sul mercato, nel panorama di queste convenienze, si pone questo complesso di patrimonio fondiario, terre e non terre e beni anche mobili o edifici, che rappresentano certamente una possibilità di orientamento di questi capitali. Se il nostro problema, quindi, in altri termini, è di vedere nel periodo napoleonico in quale modo il gioco della disponibilità di beni nazionali possa avere contribuito nel mantenere o nel favorire un processo di crescita o di sviluppo dell'economia, certamente questo tipo di considerazione, dimensioni complessive, insomma, il valore complessivo dei beni nazionali è un elemento importante. Accanto a questo io ne aggiungerei un altro che mi sembra in questa prima obiettivo della ricerca, mi sembra altrettanto importante, è quello della individuazione delle fonti di finanziamento di questi acquisti. Cioè, vale a dire, l'ambiente, gli operatori, chi ha comprato ha ricavato le risorse per gli acquisti attraverso il risparmio formatosi in questi anni, o in qualche modo, accanto al processo di liquidazione del patrimonio ecclesiastico, accanto alla disponibilità dei beni, l'azione pubblica ha anche contribuito in qualche modo, e dirò poi perché, contribuito a fornire, a facilitare anche la disponibilità delle risorse per comprare questi beni. E faccio questa domanda, che è un po' accademica, per la verità un po' retorica, perché a mio modo di vedere questa seconda posizione del pubblico potere, che nel mettere disponibile il patrimonio ecclesiastico sul mercato ha anche operato altre misure di politica economica che contestualmente hanno favorito, hanno accresciuto, cioè, il volume delle disponibilità per poter comprare questi beni nazionali. E questo appartiene al primo gruppo di temi da studiare per rispondere al quesito generale conseguenze economiche della vendita. Il secondo blocco temi da affrontare attiene, direi, più strettamente, più direttamente agli effetti della vendita dei beni, alle conseguenze economiche della vendita dei beni sul mondo agricolo, sull'agricoltura, sul settore primario. Qui certamente si pone un problema di metodo molto importante, a mio modo di vedere, cioè, e per essere rigorosi, estremamente rigorosi, il discorso si pone in questo modo. Io analizzo, individuo i compratori di beni nazionali e cerco una correlazione fra questi individui che hanno comprato i beni nazionali e il loro farsi protagonisti del cambiamento, del miglioramento in agricoltura. Questo, a mio modo di vedere, è il solo modo, è la sola modalità, insomma, che consente di risolvere il grande problema, l'effetto positivo o negativo di questo grande processo di liquidazione del patrimonio ecclesiastico. Va da sé. E tutti chi ha fatto un po' di studi in questo campo lo sa molto bene, che è una via di estrema difficoltà perché comporterebbe intanto appunto l'individuazione dei singoli acquirenti, comporterebbe soprattutto l'analisi del comportamento di questi acquirenti in ordine al possesso della terra più o meno nuovo. Potrebbero essere vecchi proprietari o nuovi proprietari, non vuol dire, ma vedere come loro hanno gestito questa nuova proprietà che hanno comprato dal vecchio possessore ecclesiastico. È di estrema difficoltà, ma non è impossibile. In alcuni casi noi sappiamo i nomi e cognomi di quelli che hanno comprato beni di proprietà ecclesiastica, che hanno conseguito il possesso fondiario con questo, mettendo a frutto le opportunità di questi anni e contestualmente sono i protagonisti di più o meno tentativi riusciti di miglioramento della gestione delle terre. E cito subito adesso il nome del più famoso di tutti, insomma, Vincenzo Dandolo, in cui questa correlazione è nettissima. È un uomo che non ha mai posseduto niente, viene da Venezia, compra le terre e diventa uno degli uomini sui quali si fonda, direi, l'azione pubblica di trasferimento delle esigenze di mutamento strutturale anche dal punto di vista dell'agricoltura lombarda. Ci sono, per documentare questo collegamento fra processo di liquidazione e miglioramento agricolo, poi altre fonti molto generiche, peraltro, testimonianze di agronomi dell'età della restaurazione, per esempio testimonianze di pubblici funzionari dell'epoca napoleonica, i quali testimoniano generalmente, genericamente, questa esistenza di una agricoltura che conosce certi momenti di crescita collegata proprio con il processo di liquidazione, di disponibilità quindi del patrimonio ecclesiastico. E questo è un primo elemento di analisi degli effetti economici della vendita sul mondo dell'agricoltura. Poiché però come dire, la via è difficile, si percorre con grandi difficoltà per le ragioni che ho detto, per l'indisponibilità delle fonti sostanzialmente, per il silenzio delle fonti, noi seguiamo di solito una via indiretta per studiare questo collegamento fra crescita dell'agricoltura o comunque effetti sull'agricoltura del processo di liquidazione. E la via indiretta qual è? Quella di analizzare il processo di liquidazione del patrimonio ecclesiastico dal punto di vista, come abbiamo fatto sempre in tutti i luoghi, degli acquirenti. Cioè, in altri termini, il proprietario ecclesiastico spossessato dei suoi beni ha dato luogo al sorgere, all'emergere di una diversa distribuzione della proprietà fondiaria. Noi studiamo questa diversa distribuzione della proprietà fondiaria e lo facciamo da un lato nella presunzione che già questo cambiamento dal proprietario ecclesiastico al proprietario laico, già questo cambiamento possa essere la matrice, il fondamento di qualche mutamento nel campo dell'agricoltura. Cosa, a mio modo di vedere, non sempre provata, anzi, da cose sentite anche stamattina da opinioni, e penso a Zangheri, penso a Villani, dicevo, non sempre al cambiamento della distribuzione della proprietà fondiaria, il passaggio dalla proprietà ecclesiastica alla proprietà laica, dà luogo di per sé ad un mutamento dell'agricoltura. Si potrebbe dire, semmai, crea forse le condizioni necessarie affinché il progresso, la crescita, lo sviluppo dell'agricoltura si metta in marcia, ma di per sé, ripeto, il solo cambiamento della distribuzione della proprietà fondiaria non è un elemento probante, appunto, che riesce a documentare il miglioramento dell'agricoltura italiana. Direi che da questo punto di vista è da riconoscere, peraltro, forse dal punto di vista soprattutto della storia economica in senso lato, che già una modificazione nella distribuzione della proprietà fondiaria è un tema di per sé importante. Se uno fa la storia dell'agricoltura, nella storia dell'agricoltura c'è dentro anche come si distribuisce la proprietà fondiaria per gruppi di proprietari, evidentemente in questo grosso processo di rimescolamento della distribuzione della proprietà fondiaria stessa si colloca molto bene un'analisi approfondita anche delle direzioni dove le terre sono andate a finire, dei nuovi proprietari o dei proprietari comunque che sono succeduti al proprietario fondiario. In questo secondo blocco quindi di argomentazioni, che vanno dalla prima correlazione diretta fra progresso agricolo e proprietà fondiaria, la seconda analisi della distribuzione della proprietà fondiaria conseguente alle leggi di soppressione e di alienazione del patrimonio ecclesiastico, direi sono tre quesiti fondamentalmente ai quali noi dovremmo rispondere. Proprio così per delineare un quadro sufficientemente preciso di questo processo. Il primo quesito è quello noto: che cosa si è venduto? Voglio dire, proprietà ecclesiastica, l'ho detto mi pare all'inizio, non è soltanto la terra, anzi, una delle cose importanti che sono venute alla luce dall'estensione, almeno delle mie ricerche, dal 1802 al 1814, è proprio questo grande fatto, che la proprietà fondiaria è costituita non soltanto da terreni, ma da altri beni di natura mobile, direi, in modo notevole, e anche di natura beni immobili diversi dai terreni, gli edifici, le case, che hanno costituito questo secondo blocco di elementi diversi dal terreno, una quota non piccola delle vendite realizzatesi appunto dopo il 1802. Quindi che cosa è stato venduto? E questo discorso è da collegare al primo, l'entità dei capitali disponibili, insomma del volume complessivo delle risorse messe in gioco da questi fatti. Il secondo elemento, accanto a che cosa è stato venduto, è chi ha comprato, l'individuazione cioè degli acquirenti. E il terzo punto è, a mio modo di vedere, ugualmente importante, è dove erano situati i beni messi in vendita, questo con particolare riferimento ai terreni, perché noi sappiamo, e qui faccio riferimento specifico all'ambiente lombardo, ma perché lo conosco meglio, insomma, ma l'agricoltura italiana è un mosaico di situazioni e di differenze strutturali. Uno immagina immediatamente che altro è vendere terre in area di montagna, altro è vendere terre nella bassa pianura irrigua, insomma. E allora l'individuazione anche della dislocazione fisica di questi beni posti in vendita è un punto importante che è impossibile, agli effetti di una corretta ricostruzione, ignorare. Vi è infine un terzo gruppo di elementi da indagare, che io pongo alla loro attenzione con un po', come dire, di imbarazzo anche, perché effettivamente è un tipo di indagine che personalmente ho ignorato, insomma, ho ignorato perché ci sono delle ragioni fondamentali che spiegano l'aver ignorato questa terza serie di indagini, e che comunque dovrà essere posto sul tappeto perché mi sembra un problema importante alla luce anche di altre discipline non soltanto storico-economiche. Faccio riferimento al fatto che dal mercato in generale, insomma, dal sistema economico considerato, per effetto delle soppressioni delle corporazioni religiose e per effetto dell'incameramento da parte dello Stato, sparisce un tipo di consumatore, insomma, il quale è provveduto di entrate per la gestione delle sue proprietà globalmente considerate, che è dell'ordine di qualche decina di milioni all'anno il complesso delle entrate degli enti ecclesiastici in genere. Ora, questo tipo di consumatore sparisce dalla circolazione. La domanda, cioè espressa dalle corporazioni religiose, non è più espressa su quel mercato e viene sostituita da un'altra domanda dei consumatori che hanno comprato quei beni lì, ovvero anche del consumatore pubblico, dell'operatore pubblico, Stato, che è in possesso dei beni residui, insomma, soppressi, incamerati, ma non venduti. È certo che la struttura della domanda e la qualità della domanda espressa dalla corporazione, dal complesso delle corporazioni religiose è intuitivamente diversa dal complesso della domanda che verrà espressa dal consumatore civile che compra questi beni e che sfrutta parzialmente quelle entrate. In parte sicuramente gli enti religiosi avranno destinato le loro entrate al soddisfacimento dei bisogni primari, i membri della corporazione religiosa, le attività di beneficenza e di assistenza, importantissime date le dimensioni del fenomeno di soppressione delle corporazioni religiose, probabilmente in parte le avranno impiegate anche per esprimere una domanda diversa. Gli edifici, per esempio, la manutenzione degli edifici, la costruzione degli edifici, diceva il professore prima, sostituita dallo Stato ad un certo punto, gli arredi sacri, la domanda nel settore tessile, per esempio, la domanda di altri settori di attività manifatturiera più o meno specializzata, che tutto sommato indefinita oggi allo stato degli studi, voglio dire, nessuno sa oggi come una corporazione religiosa, come un grande ente religioso gestiva il proprio patrimonio, che politica di bilancio, insomma, attuava, sia sul versante delle entrate come soprattutto su quello delle uscite, che cosa era destinato, insomma, del complesso delle entrate a questi vari capitoli di spesa. E a mio modo di vedere questo è un punto che dovrebbe essere risolto. E questo spiega il perché personalmente sono in difficoltà a dirlo, ma anche mi giustifica il perché non mi sono messo su questa strada. Perché richiede un lavoro a latere relativo alla ripresa di tutti il materiale documentario che c'è, no, risultati dalle soppressioni, l'analisi di questo materiale documentario nel tentativo di delineare una tipologia del consumatore, diciamo così, o dell'operatore ecclesiastico visto in questa prospettiva. E queste esaurirebbero, insomma, le tre grandi linee di azione sulle quali dovrebbe muoversi un'indagine relativa alle conseguenze economiche della liquidazione del patrimonio ecclesiastico. Io cercherò adesso allora di dare conto dei risultati di questa analisi riferita all'ambiente Regno Italico e Lombardia in particolare, punto per punto, chiedendo scusa del terzo che è soltanto un problema e non ha avuto ancora, appunto, una sua soluzione. L'analisi del primo punto, le dimensioni complessive delle vendite e le modalità di finanziamento di queste vendite. Io ho valutato nel Regno Italico tra il 1796 e il 1814 all'incirca un impiego di capitali, diciamo, no? Nell'acquisto dei beni ecclesiastici attorno ai 300 milioni di lire, 300 milioni di lire italiche del tempo, naturalmente, con una ripartizione nel tempo, direi, non ho fatto dei calcoli precisi, ma forse relativamente più accentuata fino al 1802 e direi un po' più diluita dal 1802 al 1814. Quindi questi 300 milioni circa di beni ecclesiastici venduti in pratica furono finanziati certamente con risparmi accumulati nel periodo, ma furono anche finanziati con risparmi, vorrei dire, accumulati fuori dal periodo considerato. È noto a tutti che nell'età napoleonica, tra il 1796 e il 1814, quasi mai le leggi che disponevano la vendita del patrimonio ecclesiastico limitavano il pagamento del prezzo a solo denaro, quasi mai, voglio dire. Normalmente, la pratica normale era che in pagamento del prezzo si versasse una quota in denaro. Credo che ci sia solo una legge dove che prevede il versamento a tutto contante, ma con risultati talmente negativi per cui hanno dovuto ritornare sulle decisioni precedenti. Normalmente il pagamento del prezzo fino ai 4 quinti dell'epoca 1804-1814, fino ai 4 quinti si potevano versare titoli del debito pubblico sostanzialmente considerati. Come le chiamavano le carte, insomma, il pagamento in carte, il pagamento in buoni. Ora, certamente una parte di queste carte risultavano nient'altro che una forma diversa del contante. Mi spiego, quando il governo impone la contribuzione più o meno forzata, cioè chiede ai cittadini di sottoscrivere delle cartelle del debito pubblico, e lo fa subito a partire dal 1797 in avanti, certamente trasforma denaro contante che deve essere versato come contribuzione in cartelle del debito pubblico e queste cartelle vengono poi riassorbite in occasione del pagamento dei prezzi dei beni nazionali. Questa è una pratica che è normale, insomma, nei primi anni. Dello stesso tipo sono i buoni emessi dal Monte Napoleone. Dopo il 1809, sono dei cartamoneta, si direbbe a questo punto, titoli di debito pubblico temporanei, quindi rimborsabili a medio andare, anche questi sono accettati in pagamento dei beni nazionali. Ma se ben guardate, rappresentano sempre una forma diversa di risparmio che viene accumulato, formato, senza cioè. Che risulta dalla propensione al risparmio relativa agli anni di cui noi stiamo parlando. In effetti, nell'età francese e dopo il 1804, l'azione pubblica fa qualcosa di più, mette cioè a disposizione degli acquirenti delle risorse che erano immobilizzate per investimenti in titoli del debito pubblico precedenti però al 1796. Quando cioè nel marzo dell'804 si fa la legge di liquidazione del debito pubblico, importantissima, il 21 marzo 1804, si riconoscono i debiti pubblici precedenti, si riconoscono, con una prassi che poi noi ritroveremo dopo il 1861, con la legge Bastoggi sull'unificazione del debito pubblico, si riconoscono i debiti dello Stato, meglio degli Stati, verso i creditori, accesi nelle varie aree, dalla Lombardia col Banco di Sant'Ambrogio, col Monte di Santa Teresa, ai Monti di Ferrara, Modena, Bologna, ai depositi del Banco Giro e della Zecca di Venezia. E questo riconoscimento ha voluto dire, secondo i calcoli del 1813, qualcosa come 300 milioni di debito pubblico riconosciuto. Pagato in quale modo? Come è liquidato questo debito pubblico? E qui viene il punto fondamentale. Per metà circa, forse un po' più della metà, questo debito pubblico è stato consolidato, voglio dire, trasformato in un riconoscimento di un debito pubblico a carico del nuovo regno, e quelle che chiamavano le inscrizioni, che era dire tu sei titolare di un credito di 100 lire, grosso modo per 50-55 lire te lo riconosco e ti do il 2,5% di interesse. L'altro però 45% circa di questo volume complessivo, in milioni erano 135 milioni se non sbaglio, fu convertito in un altro titolo di credito che si chiamava rescrizione, che non fruttava interesse, ma che era accettato al nominale nell'acquisto di beni nazionali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il volume complessivo dei risparmi nell'ambiente Regno Italico dove questo si è realizzato, non solo ha potuto far fronte a questo, ai capitali disponibili in beni nazionali, ma ma ha avuto questa immissione, questa mobilizzazione, in altri termini, di un capitale immobilizzato pari grosso modo a 120 milioni secondo i calcoli del 1813. Quindi allora lo Stato ha in qualche modo riequilibrato, da un lato, diciamo, le risorse disponibili per gli investimenti rispetto agli investimenti stessi. Cioè, lui, essendo portatore di un sostanziale squilibrio nel campo degli investimenti, perché mette a disposizione degli investitori questo patrimonio pubblico sul quale si devono indirizzare le risorse, contestualmente ha un po', diciamo, riequilibrato la situazione perché ha dato anche agli operatori stessi la possibilità di avere dei crediti sui quali poi da impiegare, qui in questo caso da impiegare soltanto in quel particolare tipo di impiego. Questo mi sembra un punto molto importante perché, ripeto, definisce così abbastanza chiaramente, consente di avere un'idea precisa, insomma, del tipo di azione pubblica in questa direzione, che è la disponibilità di occasioni alternative di impiego dei capitali nel sistema economico del Regno Italico. Il secondo punto, secondo blocco di elementi da analizzare, è gli effetti sull'agricoltura. Gli effetti sull'agricoltura, sul primo aspetto, quello cioè di una correlazione diretta fra l'individuo percettore, l'individuo proprietà che compra beni nazionali e l'individuo che è protagonista del cambiamento, dicevo, ci sono alcuni elementi che sono noti. Ho citato il caso del Dandolo, potrei citare il caso di altri uomini che non risultano proprietari fondiari di antica data, che comprano però beni nazionali e che diventano, diciamo, i portavoce, insomma, gli alfieri delle proposte migliorative che vengono fatte in questi anni. Proposte migliorative che, come risulta da qualche documento, si riferiscono tanto ad una diversa destinazione del suolo, cioè terreni anche aratori, quindi seminativi, che vengono trasformati accentuandone gli indirizzi foraggeri, per esempio. Se passa dall'aratorio al prato con grande impiego, quindi con grande possibilità di espansione degli allevamenti zootecnici da un lato, quindi mutamento della destinazione dei suoli, ovvio il mutamento dagli incolti, dalle brughiere, dai boschi anche che si trasformano in terreni coltivati. Da vedere soprattutto questa azione di tentativo di miglioramento nel campo, per esempio, noto, assai noto, degli allevamenti ovini. Non a caso ho citato il Dandolo. Fra le cose che durante l'età napoleonica si cerca di migliorare è l'allevamento delle pecore, quindi la produzione di lana, e il governo trova in un gruppo di operatori agricoli, insomma, in cui ci sono dentro, ripeto, nomi non appartenenti alla tradizionale proprietà fondiaria, che accettano di farsi strumento nel miglioramento, accettano cioè di entrare in possesso di queste capi di bestiame di importazione appunto francese o piemontese e di espandere, diffondere questo tipo di allevamento. Ci sono poi delle testimonianze qualitative indirette, citavo prima i funzionari pubblici. Il prefetto del Dipartimento dell'Alto Po, cioè Cremona in sostanza, che è una zona particolarmente importante per l'agricoltura, ha dichiarato nel 1808 che tra i progressi evidenti di quell'agricoltura cremonese c'era certamente, accanto al vecchio censo teresiano, insomma, no? Riconosciuto come uno strumento di progresso agricolo, si collocava anche l'azione pubblica degli anni dopo il 1796, che aveva messo a disposizione appunto terreni che aveva determinato il passaggio dalla proprietà ecclesiastica alla proprietà laica. Ancora il marchese Fagnani, scrivendo, mi pare nel 29, nel 1829, dichiarava che a suo parere, insomma, tra il progresso dell'agricoltura lombarda, che era evidente in quegli anni, stava a monte la redistribuzione della proprietà fondiale realizzatasi in età napoleonica con l'avvento di alcuni nuovi operatori nel campo appunto dell'attività agricola. Ripeto, questo versante però è abbastanza, come dire, ben difficile da chiarire nei suoi termini complessivi. Ci Si tratta di questi spunti, insomma, che denotano però quello che è, secondo me, una connessione molto stretta tra progresso agricolo e distribuzione della proprietà familiare. Il secondo aspetto riguarda invece proprio la questione del che cosa si è venduto, chi ha comprato e dove si è comprato. Qui la questione è, direi, lombarda. Io ho approfondito questo tema con riferimento soprattutto alla Lombardia. Individuo dal punto di vista del che cosa si è venduto, due momenti, due periodi sostanzialmente. Un periodo fino al 1802 circa, 2-3, in cui hanno prevalso nettamente le vendite delle terre, dei terreni. Un periodo dal 1800, diciamo 3-4 in avanti, in cui la situazione si riequilibria notevolmente, nel senso che vengono messe in vendita altre cose, altri tipi di proprietà diversa da quella terriera. Intanto dirò che una valutazione complessiva delle vendite di beni nazionali in Lombardia tra il 1796 e il 1814 rispetto ai 300 milioni circa per il complesso del Regno Italico, io credo di non sbagliare di molto, valutandola attorno ai 95 milioni, quindi quasi un terzo del patrimonio totale è stato venduto con riferimento all'ambiente lombardo. Bene, però dicevo, dopo il 1802 si riequilibra nettamente la partecipazione delle terre rispetto agli altri tipi di beni. Secondo un'analisi precisa del triennio 1804-1806, quando il valore totale dei beni venduti fu di circa 52 milioni, la presenza dei beni fondiari delle terre era attorno al 35%. Il resto era costituito da case e poi da due capitoli di spesa, di due tipi di proprietà che io ho sentito per esempio prima dal professore, che in Germania tutto sommato non costituì oggetto di vendita. In Italia furono venduti i diretti domini, quella che era cioè la distinzione fra il proprietario utile e il proprietario diretto, per cui al patrimonio pubblico erano affluiti i diretti domini e non i domini utili, e sono tutta la massa dei livelli sostanzialmente. Bene, il dominio diretto fu venduto, e fu venduto per una quota che in quel triennio 4-6 rappresentava il 50% delle vendite complessive, rappresentava cioè su 52 milioni circa 25 milioni di beni, esclusivamente livelli. Accanto ai livelli furono venduti i mutui, cioè i prestiti che la corporazione religiosa aveva fatto ad altri e di cui godeva l'interesse, quindi venduti i capitali, come si diceva, e vendute altri tipi di prestazioni come le decime, per esempio, e furono vendute, messe sul mercato, valutate in funzione della capitalizzazione del canone annuo, e quindi ci furono gli acquirenti che comprarono questo capitale. Attenzione, perché qui c'è un punto importante. Furono venduti non soltanto a quelli che erano tenuti a pagare il livello, non furono venduti soltanto ai detentori del dominio utile, e questa era la francazione dei livelli. Uno si liberava dal carico pagando il capitale corrispondente alla capitalizzazione appunto del canone annuo. Ma furono venduti anche a terzi, per modo che alla proprietà ecclesiastica si sostituì la proprietà laica, la proprietà civile, insomma, la proprietà laica, senza però che fossero modificati i rapporti e le differenze fra il detentore del dominio utile e il detentore del dominio diretto. Quindi, e probabilmente, non ho ancora fatto i conti precisi, ma perché sono circa 7.000 i livelli venduti, quindi è una cosa piuttosto gravosa da analizzare. Però certamente una parte fu affrancata, quindi liberata completamente dall'onere annuo. Una parte però fu venduta e la gente e chi ha comprato ha fatto un investimento, 3,5%, 4%, e ha mantenuto, direi da questo punto di vista, del tutto intatta la situazione precedente, soltanto sostituendo all'ente ecclesiastico il possessore, il titolare laico. La verità è che all'accentuazione delle vendite diverse dai fondi ha giocato proprio la composizione della proprietà fondiaria soppressa e espropriata e quindi affluita allo Stato, perché diventano molto importanti con le soppressioni del 1805 e con le soppressioni del 1810, c'è una quota importante in sostanza di proprietà che sono diverse dalla proprietà terriera. Grosso modo, secondo il bilancio del 1812, che credo che sia l'ultimo fatto, perché poi quello del 13 non fu fatto, ecco, sulla proprietà complessiva di circa 130 milioni di lire dell'epoca, il patrimonio dello Stato, insomma, ricavato dalle soppressioni precedenti, i fondi rustici, i terreni, quindi in senso stretto, valevano soltanto 30 milioni circa, quindi un quarto del valore complessivo del patrimonio pubblico era rappresentato dai fondi rustici. La maggioranza, 60 milioni, era costituita da tutti i livelli o prestazioni annue del tipo, della categoria, della tipologia dei livelli. Quindi, dicevo, c'è anche una costruzione, una composizione interna della proprietà ecclesiastica che è diversa, probabilmente ha più presente, più accentuata i beni appunto rappresentati da edifici o rappresentati da altri cespiti di questo tipo. Per quel che riguarda l'ambiente lombardo e la destinazione delle vendite, io ho fatto una rilevazione, quindi la risposta al quesito chi ha comprato, ho fatto una rilevazione che riguarda per i soli terreni, riguarda grosso modo, credo, il 60% delle vendite di terreni complessivi per tutto il periodo. Un'elaborazione che mi ha portato a dividere innanzitutto le terre vendute dal punto di vista degli acquirenti, sono circa 515.000 pertiche, e 515.000 pertiche vuol dire grosso modo diviso 15, sono forse 70-80.000 ettari, così a occhio. La divisione di questa superficie messa in vendita, dal punto di vista della superficie, si sarebbe distribuita nel modo seguente. Il 23% alla nobiltà, il 17%, e questo mi sembra molto importante da sottolineare, il 17% sarebbe affluita agli appaltatori, ai fornitori, cioè così, o di apparecchi di forniture per l'esercito, penso, non so, alle sciabole, fucili, eccetera, o anche ai fornitori di derrate alimentari o per l'esercito stesso, per le piazze forti. Quindi questi, gli appaltatori pagati normalmente in beni nazionali, in terra, con una specie di permuta, insomma, avevano, per questa loro funzione, avevano acquisito circa il 17% della superficie, che è una cosa imponente, notevole. Ecco, direi che modifica da questo punto di vista abbastanza nettamente le conclusioni alle quali ero pervenuto per il primo periodo, fino al 1802. Cioè dal 1802 in avanti, direi che il gruppo degli appaltatori è quello che acquista rilievo, insomma, in termini di gruppo al quale vengono assegnate le proprietà fondiarie. Ecco, devo dire subito che l'appaltatore è quello che è definito come tale dal contratto. Il contratto di cessione dei beni nazionali dice chiaramente che è fatto a compensazione delle forniture che questo signore ha fatto a favore del governo. La terza grande categoria di acquirenti, che io in mancanza di altre possibilità di definizione, ho chiamato altri, e qui c'è dentro tutto, e sappiamo che è una categoria di grande indeterminatezza. Categoria degli altri avrebbe acquisito circa il 50% di tutte le terre, di quelle 500.000 pertiche messe in vendita. E infine c'è una quarta categoria degli incerti, di cui non ero appunto sicuro della posizione, della classificazione dal punto di vista sociale, che avrebbe acquisito circa il 7% di tutte le terre messe in vendita. Quindi direi che la proprietà fondiaria, vorrei dire, continua a vedere una buona presenza di antichi proprietari, se siamo convinti che la nobiltà sia per tradizione la detentrice normale, insomma, delle terre, quindi si riversa questo 22% delle terre ancora sulla vecchia proprietà. Abbiamo un grosso margine di incertezza, peraltro, sul 67% complessivo, gli appaltatori più gli altri, perché a questo punto è veramente debole il discorso della definizione di altri ceti che acquisiscono il possesso fondiario agli effetti del significato che questa redistribuzione ha per l'agricoltura. Mi spiego. Io non so se questi altri sono dei proprietari fondiari o se accedono alla proprietà fondiaria per la prima volta. Questo è il punto fondamentale. E badate bene che è un punto fondamentale di soluzione difficilissima. Perché? Perché per sapere se sono davvero vecchi proprietari fondiari, ancorché borghesi, diciamo così, o nuovi proprietari fondiari che accedono per la prima volta alla proprietà stessa, bisognerebbe analizzare i dati del catasto. Ma il catasto, non quello del 1720, quando furono fatti i grandi registri, parlo della Lombardia perché esiste il catasto teresiano, fortunatamente. Bisognerebbe vedere i passaggi, le successioni della terra e vedere la situazione, diciamo, al 1796, che è una cosa veramente di imponente impegno. Zaninelli sta facendo il lavoro del catasto adesso e sono 90.000 partite o giù di lì, insomma, quindi una cosa che si fa una volta sola nella vita veramente, ma poi seguire il processo di cambiamento della proprietà fondiaria fra le varie teste è una cosa impossibile. Quindi noi abbiamo questa grossa remora a monte, quando ben diciamo che la proprietà fondiaria per il 67% circa è stata acquisita dalla borghesia, abbiamo detto ancora non tutto, perché bisognerebbe dire questo 67% se era proprietario fondiario o no. Questo è il punto. Ci sono alcune possibilità di analisi individuale da cui emerge, per esempio, che alcuni fittabili di corporazioni religiose, io in mente dalle parti di Cremona, alcuni fittabili di grandi corporazioni religiose hanno comprato la terra messa in vendita. Castel Visconti, per esempio, grande possesso di una corporazione milanese, mi pare che fosse degli Olivettani, o del Capitolo di Santa Maria della Scala, se non sbaglio, una cosa così, fu comprata appunto dal fittabile che aveva in gestione questi fondi, quale ha partecipato regolarmente alle aste e si è aggiudicato il fondo e è diventato quindi proprietario fondiario. Ecco, però da questo punto di vista, ripeto, siamo in una grande incertezza. Un secondo punto che mi interessa sottolineare è riferito al quesito dove erano posti i terreni messi in vendita. Di quelle 514.000 pertiche prima considerate, vi ho fatto fare un'elaborazione per zone agrarie. La Lombardia è stata divisa in zone agrarie, non soltanto le tre tradizionali, montagna, collina, altopiano e pianura, ma anche all'interno di queste grandi ripartizioni, un'analisi più particolareggiata, ed è risultato che la concentrazione delle proprietà fondiarie messe in vendita è nelle aree di pianura, a partire dalla pianura subito a nord di Milano, qui vediamo subito, sono 30, 40, 50, circa, così a occhio, più del 70% dei 514.000 ettari furono venduti nella zona genericamente definita di pianura, e di questo 70%, più del 50%, nella zona di pianura irrigua, cioè dal sud Milano fino al Po, quindi comprende le province di migliore agricoltura, da quella pavese a quella lodigiana, a parte di quella cremonese e a quella un po' meno pregiata dell'ambiente mantovano. Quindi allora una grande ripartizione, una grande concentrazione della distribuzione delle vendite, soprattutto in zone, direi, di pianura e di pianura irrigua. La cosa è molto importante, quest'ultimo rilievo. È molto importante perché queste vendite in queste zone si inseriscono in zone, in aree dove il sistema agricolo non solo è consolidato da molto tempo, ma è un sistema agricolo che è considerato da tutti, contemporanei e non contemporanei, come ad un livello di progresso tale da essere raramente suscettibile di ulteriori miglioramenti. Quando uno dice, come qui per esempio, che il 12% delle terre va a finire nell'ambiente lodigiano, per esempio, è difficile che il passaggio di proprietà da proprietario ecclesiastico a proprietario laico mette in moto dei meccanismi di sviluppo e di crescita, perché questa agricoltura oramai è centrata su una struttura tale per cui questi sviluppi e crescite non hanno molti margini per essere realizzati. In effetti, basta pensare al dominante affitto a denaro con imprenditore, come si dice, capitalista, il fittabile, che è la figura, direi, prevalente in questa zona, per dire che, essendo il fittabile il fondamento del progresso di questa agricoltura, che il proprietario sia laico o ecclesiastico, siccome di fatto si inserisce in questo meccanismo, adotta gli schemi contrattuali che sono presenti comunemente per tutta la generalità dei proprietari di questa zona, il margine di cambiamento è modestissimo perché il sistema è tremendamente consolidato e quindi c'è una mera sostituzione di proprietà laica alla proprietà civile senza che questo possa determinare, direi, dei significativi processi di cambiamento nell'appunto orientamento della proprietà fondiaria. Mamma mia, concludo subito, rapidissimamente. Concludo rapidissimamente perché vorrei sintetizzare la mia opinione su questo processo e sulle conseguenze economiche del processo di liquidazione del patrimonio ecclesiastico. Prima considerazione, è fuori discussione, secondo me, che i 300 milioni disponibili come investimenti possibili in questa area sicuramente non hanno favorito un processo di trasformazione strutturale dell'economia del Regno Italico. È vero, sono perfettamente d'accordo, che questo non basta a spiegare il perché il sistema non si evolve in senso strutturale. È chiaro che accanto alla possibilità di comprare terre, di comprare comunque beni di questo tipo, si colloca anche la politica economica. Certamente durante l'età napoleonica, penso soprattutto alla politica doganale, non è una politica doganale favorevole all'espansione nel secondario. È altrettanto vero ancora che a spiegare la stabilità del sistema dal punto di vista della sua struttura sta soprattutto l'orientamento degli operatori. Gli operatori, parliamo di quelli lombardi in modo particolare, nell'età napoleonica, mostrano tutte le attitudini meno che quella di mettersi sulla via del progresso, dell'investimento o dell'ampliamento delle manifatture. Il Vincenzo Dandolo, sopra richiamato, che è uno degli uomini più lucidi e più attenti alle esigenze di cambiamento di questi anni, lo dice con grandissima chiarezza in una relazione del 1812 al Consiglio Generale di Commercio. Dice: sarebbe bello che il valore aggiunto delle nostre esportazioni fosse incrementato mandando fuori beni manifatturati e non semilavorati. Sarebbe una cosa ottima questa, perché ovviamente accresce la ricchezza dell'economia. però questo richiede, dice lui, investimenti di capitali, margini di rischio, rottura di equilibri consolidati, che tutto sommato va molto meglio definire in termini concreti gli orientamenti di politica doganale, favorire l'esportazione dei prodotti agricoli o dei prodotti semilavorati e lasciar perdere il discorso dell'investimento nel settore manifatturiero. Questo lo dice uno degli uomini, diciamo, meno retrogradi, meno sordi alle esigenze di rinnovamento. Questo vuol dire che l'ambiente è restio a mutare le sue indirizzi di investimento, ma certamente è restio, e la disponibilità dei beni di questo tipo consolida questa resistenza al mutamento dal punto di vista strutturale. Il secondo punto su cui esprimo il mio parere è che le trasformazioni, e questo consento con opinioni emerse anche stamattina, secondo me le trasformazioni non sono state rivoluzionarie. Voglio dire, la redistribuzione della proprietà fondiaria non ha mutato significativamente l'assetto precedente. È vero però che, come diceva Villani, mi pare, nel suo lavoro, lo ripeteva poi in quel convegno in Germania forse un paio d'anni fa, che qui il discorso non è tanto di tipo quantitativo quanto invece di possibilità di accesso nella proprietà fondiaria di nuovi gruppi. Io penso che qualcuno di questi appaltatori sia stato veramente il nuovo proprietario fondiario e quindi come tale abbia messo nella gestione della terra lo stesso disponibilità, insomma, a far fruttare al meglio il suo possesso fondiario, quindi a recepire tutte le possibilità di mutamento che potevano venire fuori e sollecitare quindi il cambiamento nell'agricoltura. Direi che, in conclusione, osserverei anche questo fatto, però, che il mutamento che si è realizzato, modesto in termini assoluti, nella distribuzione della proprietà fondiaria, però ha accentuato la disponibilità dell'ambiente, e qui parlo dell'ambiente lombardo in modo specifico, la disponibilità dell'ambiente lombardo a rispondere alle sollecitazioni del mercato dopo il 1815. Dopo il 1815 noi siamo in un periodo di debolezza per molto tempo dei prezzi dei cereali maggiori, siamo in un periodo di espansione dei prezzi delle sete e di domanda della seta, siamo in un periodo in cui i prodotti degli allevamenti zootecnici hanno un buon mercato di sbocco interno e fuori dal regno. Certamente l'innovazione nella struttura e la distribuzione della proprietà fondiaria ha creato le condizioni affinché fossero accentuate le risposte positive alle sollecitazioni di mercato. Quando cioè si accentua da tutte le parti la gersicoltura, quando si espande enormemente il setificio in tutte le aree, da quelle settentrionali sedi antiche di allevamento del baco da seta e si espandono alla pianura, quando la pianura modifica gli orientamenti produttivi, accentua gli indirizzi zootecnici, ecco, in questa direzione sicuramente un sostegno notevole è venuto anche da questa innovazione nella proprietà fondiaria che si è realizzata con la liquidazione, appunto, del patrimonio ecclesiastico. E io avrei così concluso.